avviato per diventare replica. Girati e lubrifica, in cambio del successo fatti inculare l'anima. Quanti squali fottono i poeti delle strade, la posa e l'immagine saranno le catene. Capire come fare è una cosa da chiarire. Pilotato se pupato e non saprai più come uscire. Io resto salto sul mio disegno, non è sembrando che ti lascia un segno. So che come artista posso dare qualità, mentre il personaggio fa non sa cos'è che dà. Ma le cose che non vanno sono troppe, si sa. Nella musica c'è chi non ha più un'identità. Se la voglia di arrivare ti consente di accettare anche quello che non vuoi, non sai più chi sei. Le cose che non vanno sono troppe, si sa. Nella musica che fine fa la creatività. Se la voglia di arrivare ti consente di accettare anche quello che non vuoi, io invece dico spesso cerco il tuo frutto, sai, con me stesso. Voglio capire come arriva il successo. Ripasso la storia ma non trovo il nesso. Adesso penso spesso cerco un confronto, sai, con me stesso. Voglio capire come arriva il successo. Ripasso la storia ma non trovo il nesso. Adesso penso che non ci sarà giustizia per chi merita. Se non si cambia ottica nel mondo della musica e predica nel deserto spesso chi è inventiva. Ma guarda la TV e la sua forza persuasiva. Nascono showgirls e poi band a tavolino. Di volto sei uno star e già pronto il tuo destino. Lo scoop, l'intervista, i boss nel camerino. Il paparazzo che ti aspetta alla finestra dal mattino. Vai in palestra, quindi addominali ben scolpiti. C'è uno sfilato, un gran galà, fioccano gli inviti. Cambiano i tuoi giri, i valori come gli amici. I tuoi ideali sembrano telecomandati. Quanto schifo gira intorno a quello che è la musica. Ma la mia fantasia, oh no, non sarà mai plastica. Spesso cerco il tuo frutto, sai, con me stesso. Voglio capire come arriva il successo. Ripasso la storia ma non trovo il nesso. Adesso penso spesso cerco il tuo frutto, sai, con me stesso. Voglio capire come arriva il successo. Ripasso la storia ma non trovo il nesso. Adesso penso. Come arriva il successo. Ripasso la storia ma non trovo il nesso. Adesso penso spesso cerco un confronto, sai, con me stesso. Voglio capire come arriva il successo. Ripasso la storia ma non trovo il nesso. Adesso penso.